Sempre con Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti. Questa sera sono i Motor Fingers. Allora, le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Dall'hard rock degli anni 70 passiamo al metal britannico degli anni 80 con alcuni dei protagonisti di culto della scena. Abbiamo iniziato con Struck by Lightning, un brano dei Tank inserito nel disco Filth Hounds of Hades del 1982, band guidata da Ugly Ward ed influenzata dal sound motorediano in virtù della produzione del chitarrista Fast Eddie Clark, ma che non ha ottenuto grandi successi come altre formazioni. Che ne pensate? In realtà non conosciamo benissimo i Tank, non ce ne vogliono i fan dei Tank. Come riflessione personale, forse proprio la produzione di Eddie Clark, una produzione troppo motorhead per una band già troppo motorhead, quindi un trio power con un bassista cantante, in questo caso forse la copia non ha superato l'originale. Sottolineo, è una riflessione personale. Black Mirror era il titolo del vostro primo disco. Qual è il significato di tale frase così oscura? Black Mirror rappresenta una sorta di filtro di ciò che ci permette di vedere in modo neutro, puro, incondizionato l'altra faccia delle cose e di noi stessi, quindi senza avere influenze dall'ambiente esterno e dai riflessi che ci circondano. Quindi all'interno del disco si parla di dualismo e di immagini contrastanti sia a livello visivo-artistico, che abbiamo provato ad inserire all'interno dell'artwork, sia a livello di sound e di songwriting, quindi di testografia. Quindi sì, un filtro per vedere l'altra faccia di noi senza tutte le balle che ci stanno intorno. Nel 1981 Bruce Dickinson lascia i Samson per diventare il frontman degli Iron Maiden. L'ultimo concerto al Festival di Reading è diventato un album live da cui ci sentiamo Hammerhead. Fire! Samson sono un'altra di quelle band che hanno fatto parte dell'ondata di metal britannico, ma che però è rimasta nell'ombra e viene ricordata spesso per i loro ex frontman. Che ne pensate? Pensiamo anzitutto che gli Iron Maiden dovrebbero inserire Samson nei loro ringraziamenti, non solo per aver ereditato il volto e la voce di Bruce Dickinson, ma anche il batterista Clive Burr, che già suonava nei Samson, ma è stato artefice dei primi tre dischi degli Iron Maiden. Probabilmente Paul Samson non è riuscito a rimpiazzare il carisma di Bruce Dickinson nelle fasi successive alla dipartita di Dickinson stesso. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione delle canzoni? I nostri ascolti musicali partono da, diciamo, un'influenza che finisce tra gli ultimi anni 80 e i primi anni 90, quindi partendo dal rock dei Guns N' Roses, Aerosmith, gli ultimi AC/DC, Metallica, per poi passare anche alla musica, soprattutto per quel che riguarda Knox, il grunge di Seattle, quindi Stone Temple Pilots, Soundgarden, e l'abilità che a volte riesce e a volte no, è cercare di prendere le influenze, evolverle, trasformarle, mettere insieme e cercare di creare un prodotto pseudo originale o originale. Quando riesce scatta la magia, quando non riesce ci si è provato. La seconda parte si chiude con i Diamond Head, la band del chitarrista Brian Tetler, di cui è rimasto unico superstite del lineup originale dal disco Lightning to the Nation nel 1980 con Shoot Out the Lights. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco di Motorfingers dal titolo Black Mirror.